Focus Economia. Le 17, 9 minuti, 18 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, unita da un filo conduttore, se vogliamo, quello della riforma della finanza americana dall'altra parte dell'oceano naturalmente. Quello dell'Europa, che oggi riunisce per la prima volta la sua task force contro la crisi, e quella dell'Italia, che invece sta approntando la sua manovra, che dovrebbe andare al varo del Consiglio dei Ministri martedì. Di tutto questo parleremo in questa puntata di Focus Economia. Vi ricordo il numero di SMS 349-238-6666 e poi ci prenderemo un attimo di pausa, di leggerezza, chiamatelo come volete, per parlare di Champions League. Naturalmente non dal punto di vista sportivo, vedremo di capire quanto vale effettivamente questa finale e cercheremo anche di capire quanto vale un personaggio controverso ma pur sempre mediaticamente importante come José Mourinho. Per darvi un'idea, se l'Inter vincesse, immagino che gli interisti in questo momento stiano facendo gli scongiuri, se l'Inter vincesse, calcola il Sole 24 Ore oggi in edicola, il guadagno sarebbe di circa 110 milioni di euro tra premi UEFA, sponsor, diritti televisivi e incassi, una cifra che equivale a quella sborsata l'estate scorsa per comprare i giocatori. Di questo parleremo, ma naturalmente i temi centrali saranno quelli di politica economica che stanno animando il dibattito, come dicevamo, dall'altra parte dell'oceano. E da questa, le notizie in breve di questa giornata. Iniziamo dal petrolio, come sempre, che ieri, nella giornata di ieri, aveva ceduto notevolmente, era arrivato a scendere intorno ai 66 dollari al barile e appena sotto i 70 in questo momento, in un quadro generale che vede i mercati finanziari che ci avevano fatto temere un'altra giornata molto pesante. Invece le cose, a quanto sembra, vanno lievemente meglio, se considerate che a Milano si guadagna lo 0,90% sul FTSE MIB e lo 0,80% sul FTSE All Share. Le cose vanno abbastanza bene anche in America, che ieri ha subito il ribasso più pesante. Chi è andato molto male oggi è invece la borsa di Tokyo, una chiusura in forte ribasso, meno 2,45% ai minimi da 5 mesi a questa parte, tanto che la Bank of Japan, la banca centrale giapponese, ha immesso liquidità per 1000 miliardi di yen, ossia circa 9 miliardi di euro, in una mossa straordinaria proprio per allentare le tensioni sui mercati. La stessa Bank of Japan ha deciso di lasciare i tassi fermi allo 0,1%. E poi ancora la Bank of Japan si è occupata anche della situazione europea. Dice: occorre prestare attenzione alle ripercussioni delle condizioni di bilancio di alcune economie europee sulla finanza internazionale e l'economia. Sempre dal Giappone arriva una notizia interessante che riguarda il mercato dell'auto, perché Toyota e l'americana Tesla hanno siglato un'alleanza nell'auto elettrica che vuole favorire la cooperazione sullo sviluppo di nuove vetture. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa congiunta il numero uno della casa nipponica Toyota e il presidente di Tesla, Musk. Il leader mondiale dell'auto in particolare investirà nel progetto 50 milioni di dollari. Chiaro, non grandissime cifre, però insomma si inizia così e si spera di arrivare un po' più in alto. Veniamo all'Europa. La Germania ha diffuso questa mattina i dati sul prodotto interno lordo nel primo trimestre. In base alla stima finale dell'ufficio di statistica tedesco si conferma una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,6% su base annua. Dato negativo invece quello che arriva sulla fiducia delle imprese tedesche. L'indice calcolato dall'istituto di ricerca IFO è sceso a 101,5 punti dai 101,6 del mese precedente. Non è una grossa discesa, però il dato è particolarmente negativo perché gli analisti in realtà si attendevano un rialzo. Sempre dalla Germania arriva il dato, o meglio l'aggiornamento sul rendimento dei Bund, che è ai minimi dai 20 anni dopo l'ok che è arrivato oggi tanto da Bundestag quanto da Bundesrat del piano di aiuti europeo da 750 miliardi di euro. Il contributo tedesco dovrebbe ammontare fino a 148 miliardi. Ma torniamo ai Bund, perché i prezzi del Bund decennale sono in deciso rialzo e di conseguenza calano i rendimenti. Oggi hanno raggiunto il 2,618%, è il minimo appunto almeno dal 1989. E a proposito dell'approvazione, interviene anche Angela Merkel, che dice il piano salva euro un chiaro segnale per l'Europa, e ci sono ancora dichiarazioni dal governo, ossia da Wolfgang Schäuble, che è il ministro all'economia. I paesi della zona euro con debiti pubblici estremamente elevati o deficit eccessivi ricorrenti rappresentano una particolare minaccia per la comunità. E come si diceva, oggi si riunisce anche la task force decisa dai paesi europei, si ragiona, presieduta dal presidente stabile dell'Unione Europea Herman Van Rompuy, per discutere di come rafforzare la vigilanza sui conti pubblici, la governance economica. Si ragiona anche su prendere in conto a livello europeo con garanzie comuni parte del debito nazionale dei paesi che hanno le carte in regola. E parla anche il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn, il quale dice c'è ampio sostegno da parte dei paesi europei alle proposte presentate dalla Commissione e dalla Germania per aggredire il problema dei debiti pubblici nazionali. Questo è un tema che affronteremo anche nella seconda parte del programma. Allora, ha fatto molto discutere in Europa il fatto che la Germania abbia deciso di bloccare in parte le vendite allo scoperto. In sostanza si tratta di vendere dei titoli che effettivamente non si posseggono ma vengono presi in prestito, per dirla molto semplicemente. Ebbene, ha generato polemiche in Europa questa cosa, in particolare i francesi si sono arrabbiati dicendo che queste azioni vanno concordate tutti insieme. Eppure oggi l'associazione delle Consob europee, chiamiamola così, comunque delle autorità di controllo, sta studiando azioni sulle vendite allo scoperto. Sul fronte italiano ci sono i dati arrivati dall'Istat sull'export verso i paesi extraeuropei ad aprile, che hanno registrato un aumento del 12,6% e le importazioni però del 24% rispetto allo stesso mese del 2009. E parliamo di aprile. Le stime sono preliminari. Il saldo commerciale con i paesi extraeuropei risulta in deficit per circa 1 miliardo di euro, in peggioramento rispetto all'avanzo 100 milioni di euro dell'aprile del 2009. Oh, e poi c'è la manovra italiana. Sacconi, parla il ministro del welfare, dice né nuove tasse né interventi sulle pensioni. Abbiamo spiegato più volte che il nostro sistema previdenziale è sostanzialmente in equilibrio grazie alle riforme che abbiamo avviato, che si tratta ora di realizzare. Così il ministro del welfare Maurizio Sacconi, anche questo sarà un tema che approfondiremo più avanti. Si è parlato molto di lotta all'evasione con questa manovra, di stretta sull'evasione, e avete sentito nei giorni scorsi anche il nostro Sebastiano Barisoni parlare e affrontare il tema del nuovo redditometro. C'è una notizia interessante che avete sentito anche nei nostri giornali radio e che riguarda Flavio Briatore. Contrabbando ed evasione delle imposte sul carburante sono le accuse ipotizzate da un PM a carico dell'amministratore delegato della società proprietaria del mega yacht Force Blue, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, di Flavio Briatore, che risulterebbe essere il principale utilizzatore della nave in territorio europeo. Perché il reato di contrabbando? Perché un cittadino comunitario non può utilizzare un'imbarcazione immatricolata all'estero in territorio europeo se prima non ha provveduto a pagare l'IVA. L'IVA evasa si aggirerebbe sui 4 milioni. E quindi, come vedete, seppur in questo caso è solamente un caso clamoroso, si cerca di stringere anche su questi meccanismi di evasione o presunta evasione. In questo caso, naturalmente, tutto ancora da accertare. Ultima notizia che vi diamo dopo quella di ieri di Air France KLM, dell'altro ieri, pardon, che ha chiuso l'esercizio fiscale 2009-2010 con una perdita netta record di 1,5 miliardi di euro, la peggiore dalla fusione del 2004 fra la compagnia aerea francese e quella olandese. C'è quella di British Airways, anche qua un passivo storico. La compagnia britannica ha segnato una perdita netta di 425 milioni di sterline al 31 marzo scorso rispetto ad un rosso di 358 dell'anno precedente. Il fatturato è crollato dell'11% a 7,99 miliardi di sterline. E adesso veniamo al primo tema di questa giornata, ossia la riforma della finanza americana. E dunque, il Senato americano ha dato via alla riforma di Wall Street, 59 voti a favore, e ora dovrà essere riconciliato con quello uscito dalla Camera a dicembre, prima di andare alla firma del presidente americano Barack Obama. C'è da notare che di questi 59 voti a favore, 4 sono arrivati dai repubblicani, mentre invece ci sono 2 democratici che hanno votato dall'altra parte perché ritenevano che le norme non fossero troppo stringenti. Poco prima del voto è intervenuto il presidente americano Barack Obama, che ha cercato di dare di nuovo un po' un senso a questa riforma, di dare il senso generale di questa riforma. Ascoltiamolo. Over the last year, the financial industry has repeatedly tried to... Durante lo scorso anno l'industria finanziaria ha tentato ripetutamente di uccidere la riforma con le lobby e milioni di dollari in pubblicità. Ritengo che oggi sia giusto dire che questi sforzi sono falliti. La riforma proteggerà i consumatori, la nostra economia e renderà Wall Street responsabile. Abbiamo ancora molto da fare, ci saranno ancora i voti al Senato e alla Camera e ci sono delle differenze da appianare tra le due versioni. E non c'è dubbio che l'industria finanziaria e le lobby continueranno a lottare. Il nostro obiettivo non è quello di punire le banche, ma quello di proteggere l'economia e gli americani dal tipo di turbolenze che abbiamo osservato negli ultimi anni. La riforma farà sì che ai contribuenti non verrà più chiesto di intervenire per gli errori di Wall Street. Il tempo dei salvataggi con fondi pubblici è finito. E inoltre, dal momento dell'entrata in vigore delle nuove norme in poi, gli azionisti potranno dire la loro sui compensi degli amministratori delegati e di altri manager. On the pay of CEOs and other executives. Oh, questo il lato politico e, se vogliamo, anche lievemente populistico, un pochino demagogico della riforma. Ma sentiamo quali sono i veri contenuti. Dopo quella sanitaria, il presidente americano Barack Obama fa il bis con la riforma finanziaria, la più importante dagli anni 30. Le norme approvate rappresentano infatti la più ampia revisione delle regole della finanza dalla Grande Depressione e puntano a evitare il ripetersi di crisi come quella del 2008. Ma vediamo più da vicino il progetto che, dopo il sì del Senato, dovrà essere riconciliato con quello varato dalla Camera e, dopo la firma del Presidente, entrerà in vigore. Innanzitutto, la proposta appena approvata dà vita a un'autorità per la tutela dei consumatori all'interno della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, e cerca di assicurare che qualsiasi società, a dispetto della dimensione e della complessità, possa venire liquidata. Per coordinare gli sforzi nell'individuare rischi per il sistema finanziario, viene creato un comitato di supervisione per la stabilità finanziaria. Il comitato è composto, tra l'altro, dal segretario al Tesoro, dal presidente della Fed, dai vertici della SEC, la Consob americana, e della FDIC, il Fondo di Garanzia dei Depositi, e da un membro indipendente nominato dal presidente. La riforma tocca virtualmente ogni aspetto dell'industria finanziaria. Agli hedge fund e alle società di private equity verrà richiesto di registrarsi presso la SEC. Inoltre, salvo poche eccezioni, i derivati verranno scambiati su piattaforme pubbliche. A chi compra e vende contratti derivati, anche esistenti, sarà richiesto di disporre di collaterali come protezione per eventuali default. Se saluto e ringrazio Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che ringrazio in maniera particolare perché è riuscito a scavarsi qualche minuto per fare una chiacchierata con noi, nonostante sia in viaggio, sia in questo momento in aeroporto, in viaggio da Chicago a Washington. Allora Mario, abbiamo sentito i contenuti di questa riforma finanziaria che sembra completare un pochino il quadro di quel che è stato impostato all'inizio nella strategia anticrisi e rappresenta soprattutto la riforma finanziaria maggiore dai tempi della Grande Depressione. Sì, sicuramente nel momento in cui ci sarà la riconciliazione col progetto della Camera avremo una proposta di regole che cambieranno il volto del sistema finanziario così come l'abbiamo conosciuto. Ci sono un paio di questioni che restano aperte, la battaglia non sarà facile. La Camera ha passato un progetto più morbido di quello del Senato, dunque ci sarà battaglia. Barack Obama interverrà di nuovo, come fece già nel contesto della riforma sanitaria, per mediare e quindi essere colui che poi alla fine sblocca tutto. Finora ha giocato dietro le quinte, adesso entrerà in campo in prima persona. Uno dei problemi riguarda il trattamento delle grandi banche, le cosiddette banche che sono too big to fail, la Volcker Rule, l'idea di impedire a queste banche di poter fare speculazioni per conto del proprio portafoglio invece di fargliele fare soltanto per i loro clienti. Ecco, questa è una norma problematica perché le banche insistono che questa norma le metterebbe in ginocchio perché fanno enormi profitti da queste transazioni. Dunque ci sarà sicuramente un dibattito forte e alcuni alla luce di questo si domandano poi che cosa davvero verrà fuori da questa proposta. Sarà una proposta dura a sufficienza per poter evitare una prossima crisi, per poter evitare il rischio sistemico? Qualcuno, due senatori democratici in particolare, pensano di no, al punto che, come Ralph Fiennes, per esempio, hanno votato contro. Allora Mario, impressiona anche, più che impressionare forse colpisce, il fatto che ci sia una sorta di coordinamento costante, ci sia stato una sorta di coordinamento costante in questo periodo, quantomeno di accordo tra le autorità europee e quelle americane. Non a caso il segretario del Tesoro americano Timothy Geithner ha annunciato proprio ieri che la settimana prossima sarà in Germania e Gran Bretagna per fare il punto con le autorità europee. Che ne pensi Mario? Poi questo è un tema che affronteremo più avanti nella seconda parte della trasmissione, però vorrei avere la tua visione da oltreoceano intanto. Il coordinamento c'è, alcune posizioni europee, quella della Germania sappiamo sono molto più dure, sono state criticate perché rischiano di togliere e di svuotare del loro significato di riequilibratore di alcuni degli strumenti derivati, dunque il dibattito ovviamente sarà difficile a livello transatlantico ma anche nel contesto del G20. Tutti vogliono delle riforme, chi le vuole più dure, chi le vuole più morbide. Il progetto americano finirà per essere la bussola attorno alla quale tutti si muoveranno, non fosse altro perché è stato il primo, ma il prossimo appuntamento davvero importante sarà alla fine di giugno, quando ci sarà il G20 in Canada, e allora lì tutti ovviamente si dovranno concentrare e cercare di varare un progetto comune, perché è inutile che gli Stati Uniti o la Germania facciano cose diverse se poi ci sono dei gap, ci sono delle aperture, delle possibilità di, fra virgolette, varare in altri paesi. Mario, infine un'ultima domanda e riguarda l'atteggiamento degli operatori finanziari di fronte a questa riforma. Si sa che l'hanno osteggiata in maniera abbastanza potente, secondo te sarà dannosa per l'industria finanziaria? Sì, gli operatori, soprattutto dicevo le divisioni che operano sul mercato delle grandi banche commerciali, sono ostili, ma devo dire che anche Jamie Dimon, presidente di JP Morgan Chase, è ostile. Non sono soltanto coloro che operano sul mercato, ma sono il top manager che sono schierati in modo compatto, da Lloyd Blankfein di Goldman a Dimon di Chase, contro l'idea di limitare eccessivamente il sistema bancario. Dicono che in un contesto globale in cui c'è bisogno di flessibilità, mettere troppi lacciuoli finirà non soltanto per impedire a loro di poter lavorare al meglio, ma finirà per anche rovinare le prospettive di crescita economica, perché a quel punto, e questo ovviamente diventa una velata minaccia, le banche non avranno quella facilità di erogazione del credito che hanno invece in un contesto più semplice e più flessibile. Grazie dunque a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, in viaggio tra Chicago e Washington. Dunque, buon viaggio a Mario Platero e buonasera. Grazie, a presto. Commenta: siamo più vicini che mai a una riforma della finanza significativa di cui beneficerà ogni famiglia e impresa, migliorerà la competitività dei nostri mercati finanziari e rafforzerà la sicurezza e la solidità del nostro sistema finanziario. Commenta così il segretario al Tesoro Timothy Geithner. Nel frattempo, a chi ci chiede, purtroppo Mario Platero doveva fuggire, a chi ci chiede se è stato fatto qualcosa anche per le agenzie di rating, al momento non ci risulta, però è una bella notazione, perché forse qualcosa andrebbe fatto. A questo, come sapete, sta pensando l'Europa, e anche di questo, come si diceva, ne parleremo più avanti. Ci risentiamo tra un attimo per fare il punto sulla borsa. Le 17:35 minuti, 48 secondi, è il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, è stata una giornata abbastanza strana, perché era partita discretamente bene, poi c'è stata una netta discesa, abbiamo temuto il peggio intorno a metà pomeriggio, e poi invece, insomma, la chiusura è sostanzialmente in rialzo, anche non malaccio. Esatto, di sicuro si può dire che la parola chiave in questo caso, come anche peraltro nell'ultimo mese, è volatilità. Gli indici sono molto nervosi, c'è peraltro l'attesa per le notizie che potrebbero emergere dal vertice di Bruxelles, dove è riunita una vera e propria task force per rafforzare la vigilanza economica e finanziaria nell'Unione Europea. Comunque poi a dare, diciamo, a incoraggiare gli acquisti sui listini del vecchio continente è stata anche la notizia che la prossima settimana sarà in visita in Europa il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Geithner, che appunto si recherà sia in Gran Bretagna che in Germania per discutere della crisi del debito sovrano europeo e delle possibili contromisure da prendere. Tant'è che anche l'euro sul finale ha ripreso forza nei confronti del dollaro, la moneta unica è incrociata a 1,2557 dollari. Allora, un'occhiata agli indici per dare un quadro, iniziando dall'America: il Dow Jones guadagna lo 0,73%, il Nasdaq l'1,19% circa. A Milano la chiusura vede il FTSE MIB con un guadagno dell'1,32%, il FTSE All Share dell'1,46%, negativa Francoforte con un meno 0,66%, Parigi in sostanziale parità, il calo è dello 0,05%, ebbene oggi ha fatto anche Madrid. Andiamo sui singoli titoli e partiamo dalle banche, che in questo periodo, quando le borse fanno male, fanno male, e quando le borse vanno bene, vanno particolarmente bene, Leonora. Esatto, infatti sono stati proprio i titoli bancari a tirar su Piazza Affari, che ha registrato insieme a Madrid la miglior performance in Europa. Tra l'altro, tra parentesi, vale la pena ricordare che a metà seduta gli indici sono arrivati a perdere circa il 2%, ma si sono risollevati sul finale, hanno quindi sventato la possibilità di un altro venerdì nero, ed era esattamente da un mese, dallo scorso 23 aprile, che il listino milanese non riusciva a registrare un venerdì di rialzo. Detto questo, appunto, tutti i titoli bancari sono stati ben comprati: il Banco Popolare ha fatto più 3,3%, MPS più 2,3%, BPM più 2,6%, ed ancora Intesa San Paolo più 3,3%, UBI più 3,8% e Unicredit più 2,45%. Allora, brilla Geox più 4,91%, come mai? Anche in questo caso si tratta di un vero e proprio recupero. Nelle sedute precedenti le azioni avevano perso terreno, soprattutto dopo che la società aveva pubblicato i conti trimestrali con fatturato in evidente calo, e quindi insieme poi all'andamento anche un divago delle borse avevano perso terreno. Oggi si è trattato di un vero e proprio rimbalzo tecnico. Fiat molto bene, più 2,85%, sia la controllata Fiat che la controllante Exor, più 3,27%. Come mai? Una serie di notizie che hanno riacceso i riflettori su Fiat. È partita l'integrazione tra le reti di vendita di Lancia e Chrysler. Quindi ieri l'amministratore delegato Sergio Marchionne a Toronto ha dichiarato che Chrysler già a partire dal prossimo anno potrebbe essere quotata a Wall Street. Inoltre gli analisti di Goldman Sachs continuano a ribadire che le azioni sono sottovalutate agli attuali prezzi di borsa, hanno rivisto un po' basso la valutazione dell'azienda, ma comunque ritengono che sia uno dei migliori titoli nel comparto auto sicuramente da acquistare. Infine questa mattina il Messaggero ha riferito che cinque banche, Intesa San Paolo, Unicredit, Kelion, Citi e BNP Paribas, stanno studiando una complessa operazione finanziaria per fornire tra i 4 e 5 miliardi di euro a Fiat Industrial, la società che entro giugno raggrupperà CNH, Iveco e Fiat Power Train. Come mai va così bene Prysmian oggi, Leonora, un più 4,35%? Anche in questo caso si tratta sicuramente di un rimbalzo tecnico, i titoli avevano sofferto molto nelle sedute precedenti e quindi sono peraltro tra i titoli che registrano, che tendono sempre a amplificare l'andamento dell'indice, anche oggi non si sono smentiti. Bene, anche l'automatica, più 2,74. Sì, in questo caso è uno studio di una banca d'affari aver riacceso un po' i riflettori sulla società, in particolare sono gli analisti di UBS che hanno di nuovo espresso un giudizio positivo, soprattutto ricordando che l'azienda nei giorni di recente si è di nuovo aggiudicata la concessione per il gratta e vinci, e questo, secondo le stime della banca svizzera, peserà per circa un quarto sull'EBITDA del gruppo, cioè sul margine operativo del gruppo. Per quanto riguarda Fondiaria, alla fine la chiusura è stata positiva, un più 0,82%, ma mi sembra di aver capito che sia andata male un po' per tutta la seduta, Eleonora. Fondiaria ha più volte cambiato direzione insieme all'indice, d'altra parte va segnalato che l'attenzione del mercato è rimasta alta, visto che il mercato si chiede che cosa succederà nelle prossime settimane. Diversi quotidiani hanno riferito che a stretto giro, quindi nelle prossime settimane, la compagnia assicurativa potrebbe cedere la controllata Liguria Sasa. Ci sono in corsa diverse società come i gruppi francesi AXA e Groupama, ma è particolarmente interessato anche il fondo Clessidra. Questo per quanto riguarda Fondiaria Sai, negativo complessivamente il lusso e l'energia, mi sembra di capire. Sì, oggi. Il lusso tra l'altro è andato male anche a Parigi, PPR ha registrato un calo di oltre il 3%, ricordiamo PPR è la società che negli anni scorsi ha rilevato anche il gruppo Gucci, è andata male anche LVMH, la controllante di Louis Vuitton, e a Piazza Affari sono state vendute le Luxottica, meno 2,6%, e anche le Bulgari, meno 1,57%. Del resto, nei momenti di incertezza sulle prospettive dell'economia e di incertezza sulle borse, i titoli del lusso sono quelli che in genere soffrono maggiormente. Sul fronte dell'energia invece? Sul fronte dell'energia Eni si è ripresa, ha chiuso praticamente invariata nel corso della seduta, per contro aveva sofferto insieme peraltro a tutto il settore energetico europeo. Il sottoindice Stoxx 600 infatti ha accusato una flessione sul finale dell'1,25%, complice il fatto che il prezzo del greggio continua a rimanere intorno ai $70 al barile, quindi debole rispetto a qualche settimana fa. Grazie dunque anche per oggi ad Eleonora Micheli di Radio Cuore il Sole 24 Ore e ai colleghi di Radio Cuore il Sole 24 Ore. Eleonora, buonasera. Buon pomeriggio a tutti e buon weekend. Grazie, e diamo un quadro finale dei titoli che ci mancano, abbiamo parlato di molti. Bene Generali, un più 2,5%, dei bancari abbiamo detto, bene Azimut più 2,21, Saipem più 2%, Mediobanca più 1,82, Unipol più 1,5%, bene Tenaris con un guadagno dell'1,18%, ST Microelectronics dell'1,04%, di Fondiaria abbiamo detto, Mediaset più 0,67%, Atlantia più 0,40%, Buzzi Unicem più 0,38%, Enel più 0,35%, Finmeccanica meccanica, più 0,27%, un guadagno dello 0,20% sia per Mediolanum che per Campari. Parmalat e Italcementi appena sopra la parità e appena sotto Eni e Autogrill. Negativa Telecom, meno 0,46%, Terna di mezzo punto percentuale, Pirelli dello 0,58%, Ansaldo dello 0,71%. CIR di un punto percentuale, così come Snam, Rete Gas di Bulgari e Luxottica abbiamo detto. Euro che quota 1,25 e 5 contro dollaro in questo momento. La linea alla viabilità e poi ci troviamo subito dopo per parlare della manovra. E siamo appunto al colpo di acceleratore sulla manovra, che potrebbe arrivare a 27-28 miliardi. Il governo dovrebbe vedere lunedì le parti sociali e varare il pacchetto martedì al Consiglio dei Ministri. Insomma, riunione di governo martedì per varare questa manovra. Sarebbe confermato l'impianto base e gli interventi, in buona parte tagli strutturali alla spesa, una maxi sforbiciata sugli enti, misure su previdenza e pubblico impiego, mentre il pacchetto fiscale punta sulla lotta all'evasione, come abbiamo già detto poco fa. Dalla sanità tagli per 2 miliardi e mezzo, un possibile ticket da 7 euro e mezzo sulla specialistica. Saluto Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera Dino. Buonasera, buonasera a te Simone. Allora, come mai questa accelerazione? Ma l'accelerazione è in qualche modo imposta dalla crisi, come ha osservato il ministro Tremonti, cioè in realtà i tempi della correzione sono solo in parte, diciamo, nel dominio del governo, come sta dimostrando la situazione sui mercati, come sta dimostrando il fatto che altri paesi dell'Eurozona stanno intervenendo con robuste manovre correttive. L'accelerazione è anche un segnale ai mercati, evidentemente, cioè si vuole dare il segnale preciso che l'Italia in qualche modo punta a giocare d'anticipo, poiché, come abbiamo visto, lo spread tra i Bund tedeschi e il BTP è risalito ieri fino a 130 punti base, che è il massimo dal 7 maggio. Non è una situazione di emergenza, è un piccolo campanello però, che ovviamente il ministro dell'economia valuta con la dovuta accortezza e preoccupazione. Allora, si tratta di giocare d'anticipo. Per giocare d'anticipo occorre varare il più presto possibile. Poi sul fatto che possa essere martedì o mercoledì o giovedì c'è ancora un po' di dibattito aperto, tanto che non è detto, ad esempio, che la convocazione che ieri sera è stata annunciata dalle parti sociali lunedì sera avvenga effettivamente lunedì sera. Questo fa pensare che potrebbe esserci un piccolo supplemento di istruttoria, ma insomma 48 ore non cambiano il senso. Si punta a una manovra forte, una manovra importante. Questa volta diciamo il segnale è deciso, si agisce sulla spesa e dunque... Ci chiedono, Dino, ci chiedono al 349-238-6666, ma non si era detto che della manovra correttiva non avevamo bisogno? Allora, qui bisogna intendersi bene. Allora, nel Consiglio Ecofin di dicembre, e quindi stiamo parlando prima dell'esplodere della crisi della Grecia, dell'attacco all'euro, della manovra straordinaria decisa il 9 maggio dall'Eurogruppo, quindi in dicembre il Consiglio Ecofin aveva chiesto all'Italia di fare una correzione biennale di 1,6 punti di PIL, che equivale a circa 25 miliardi, nel prossimo biennio, per ridurre il deficit, che quest'anno sarà al 5% del PIL, portarlo al 3,9 nel 2011 e al 2,7 nel 2012. Questo impegno il ministro dell'Economia Tremonti lo ha sottoscritto in due documenti. Il primo è di gennaio ed è il programma di stabilità. Il secondo è la relazione unificata economia e finanza, che è stata approvata 3 settimane fa. La manovra correttiva serve per riportare il deficit entro questi parametri. Quello di cui si è parlato era la eventualità che occorresse intervenire nell'anno, in corso d'anno, cioè che fosse necessario correggere il deficit per l'anno in corso. Questa è un'eventualità che il ministro dell'economia fino a qualche giorno fa ha smentito, e nei fatti dovrebbe essere così, poiché la manovra che si annuncia è una manovra sul biennio, vale a dire 2011-2012. Sull'anno in corso è probabile che si tratti più che di una manovra aggiuntiva, di finanziare alcune spese che vengono in qualche modo in scadenza. Faccio un esempio, il finanziamento delle missioni internazionali di pace richiederebbe uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni, questo è probabile che venga deciso col decreto correttivo, non è una manovra aggiuntiva, è però uno stanziamento che serve a finanziare una spesa in corso d'opera che viene definita inderogabile. Quindi questo è il quadro, la correzione serve perché ce la chiede l'Europa e ora in qualche modo i mercati. Bene, Dino Pezzone, ti ringraziamo anche per oggi, anche per averci chiarito un pochino il senso politico e internazionale di tutta questa manovra. Poi naturalmente vedremo nel dettaglio, perché dei contenuti abbiamo parlato tantissimo in queste settimane, insomma andremo a vedere quando sarà approvata la manovra che cosa effettivamente ci sarà e che cosa verrà fatto saltare. Grazie dunque a Dino Pezzone del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, grazie a voi. Tra le cose, tra l'altro, che potrebbero saltare, per esempio, si valuta il rischio di incostituzionalità per la norma della manovra allo studio che prevederebbe un taglio del 10% delle retribuzioni che vanno oltre gli 80-100 mila euro dei manager della pubblica amministrazione. Insomma, a quanto si apprende non sarebbe di facile applicazione. Sempre sul fronte della manovra, l'ipotesi, come si diceva, di una finanziaria da 28 miliardi, 4 dei quali dovrebbero arrivare da un taglio ai trasferimenti ad enti locali, comuni e regioni. Valentina Furlanetto ha intervistato il sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, che è l'associazione dei comuni, Sergio Camparino. I comuni negli ultimi 5 anni hanno dato un contributo positivo ai saldi di finanza pubblica di più di 2,5 miliardi di euro. Il comparto dei comuni ha dato un contributo positivo. Aggiungo che il comparto dei comuni pesa per circa l'8,5% in termini di valore della produzione rispetto all'intera pubblica amministrazione. Quindi sacrifici, siamo pronti ad affrontare la sfida a condizione che paghi di più chi finora ha pagato di meno e che paghi di più chi pesa di più rispetto all'intero comparto della pubblica amministrazione. Quindi che non siano tagli indifferenziati. Esatto, non possiamo accettare di essere messi alla stessa stregua di altri comparti locali o centrali che in tutti questi anni non hanno dato un contributo positivo o peggio ancora hanno contribuito a peggiorare i saldi di finanza pubblica. Questa è l'opinione del presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, Sergio Chiamparino. Adesso noi cambiamo argomento e ci spostiamo. Andiamo a Madrid, ma per una volta non ci andiamo per parlare di crisi, nonostante ieri il governo Zapatero abbia varato le riforme di austerità che si prometteva, ma ci andiamo per parlare della finale di Coppa dei Campioni, l'Inter contro il Bayern Monaco, lo sapete tutti, ne parliamo naturalmente dal punto di vista economico. Calcola il Sole 24 Ore oggi in edicola che nel caso di vittoria nelle casse nerazzurre finirebbero circa 110 milioni di euro, considerando il budget per la partecipazione alla UEFA, il premio UEFA in denaro, una percentuale sul profitto commerciale del torneo, l'incasso dei biglietti, le entrate commerciali di marketing e poi naturalmente l'incremento di valore della squadra. Saluto Giovanni Palazzi, amministratore delegato di Stage Up, che è società specializzata in marketing sportivo e diciamo il nostro abituale interlocutore quando parliamo di questi argomenti. Palazzi, buonasera. Buonasera. Allora, al di là, innanzitutto ci dia conferma su questa cifra, se secondo lei la valutazione è valsata un pochino, se possono influire altri elementi. Quello che secondo me va valutato al di là del conto economico è la rivalutazione patrimoniale della marca, in questo caso della marca Inter, cioè ci troviamo di fronte al fatto che una società vincitrice di una manifestazione internazionale come quella, come la Champions League, unitamente peraltro a due successi nazionali, porta ad un apprezzamento del valore della marca molto importante, che può essere tra il 20 e il 25%, e questo è un valore duraturo che è sulla marca, valore che peraltro tende ad aumentare in questo caso, perché l'ultima vittoria dell'Inter è una vittoria comunque molto lontana nel tempo, quindi in un momento in cui il club calcistico non era un'entità, non era un'azienda come quella di oggi. quindi parlando di cifre che molto probabilmente sono superiori, se la vediamo, perché esiste, se la vediamo in prospettiva, sì, naturalmente. Se la vediamo in termini, diciamo, di valore immateriale che in questo momento non riusciamo a mettere nei conti. Naturalmente, e che è un valore in prospettiva. Adesso vedremo anche di capire un pochino meglio che cosa intende Palazzi per valore della marca e che impatto ha poi effettivo, aumento dei tifosi, aumento degli abbonamenti e via dicendo. E poi cercheremo anche di capire quest'uscita di Mourinho, se avrà, presunta ancora naturalmente perché non c'è l'ufficialità, se avrà un qualche impatto naturalmente sull'Inter e sulla squadra che lo accoglierà. Lo facciamo però dopo il giornale radio. Le 18 e 9 minuti, tra un attimo riprenderemo la chiacchierata con Giovanni Palazzi, amministratore delegato di Stage Up, società specializzata in marketing sportivo, per parlare di questa finale di Champions League e non solo. Solo un breve riepilogo di come è andata la giornata di borsa: il FTSE MIB ha guadagnato l'1,32%, il FTSE All Share l'1,19%, l'America in questo momento è in positivo, più 0,86% sul Dow Jones, molto, molto bene il Nasdaq, più 1,32%, lievemente negativa oggi Francoforte, euro che quota 1,25,7 contro dollaro. E dunque riprendiamo con Giovanni Palazzi, amministratore delegato di Stage Up, appunto società specializzata in marketing sportivo. Eravamo rimasti in sospeso con una domanda, insomma, che cosa intende Palazzi per valore della marca, da una parte, che ci ha detto che può portare ad un incremento del valore del 20-25%, si può incrementare di valore del 20-25%, che cosa intende effettivamente, e poi quanto vale un uomo come José Mourinho, che insomma tanto mediaticamente ha esposto la squadra e se stesso, visto che adesso insomma potrebbe andarsene. Palazzi. Sì, cominciamo dalla prima. Il valore della marca significa attrattività futura sulla marca, diciamo quella che viene chiamata brand equity, cioè la capacità della marca in futuro di attirare più abbonati, più biglietti, più sponsor, più opportunità di trasferte remunerate all'estero della squadra, più diciamo capacità quindi di generare profitto in futuro. E questo è un qualche cosa che sostanzialmente è una sorta di grande acceleratore di particelle che diventa la vittoria. Per quello che riguarda invece Mourinho, la questione è un po' più complessa, nel senso che ci troviamo certamente di fronte ad uno degli allenatori più attenti alla sua immagine. Va detto che nel giro di 2 anni è riuscito a passare dal 44% di notorietà sul mercato Italia al 70%, avvicinando i grandi allenatori italiani. Ci troviamo di fronte ad un uomo che può avere certamente grandi opportunità al di fuori del sistema dell'allenatore di calcio, ad esempio come testimonial aziendale. La maggior parte dei grandi allenatori, soprattutto negli Stati Uniti, non opera tanto come i giocatori, come testimonial di marche, ma opera principalmente come testimonial aziendale nell'ambito di meccanismi formativi che utilizzano la metafora dello sport. Grazie dunque a Giovanni Palazzi per essere stato con noi, e a chi ci chiede si aumenteranno anche i costi per i prossimi contratti. Infatti i calciatori che rinnoveranno per l'Inter chiederanno un adeguamento congruo, diciamo che probabilmente è vero. Certo che, considerati i ragionamenti che abbiamo fatto, ce n'è d'avanzo per tutti quanti. E siamo al quello che probabilmente diventerà il tema centrale economico di questa giornata, ossia la prima riunione della Task Force europea sulla riforma del patto di stabilità e il rafforzamento della governance economica. Alla riunione partecipa per l'Italia il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Nei fatti al momento appare come un Ecofin mascherato, se così vogliamo dire. Lo chiediamo al nostro Sergio Nava, che ne sta seguendo i lavori. Sergio. Sì, buonasera Simone, buonasera agli ascoltatori. ascoltatori è, infatti, un ecofin mascherato, anche se potremmo definirlo un ecofin a lungo termine, anche perché finalmente l'Europa ha avviato una riflessione anche sulla propria politica economica. Fatto l'euro, non c'era comunque una politica economica coordinata, c'è voluta una crisi forte come quella greca, che poi ha contagiato purtroppo anche altri paesi, per arrivare a portare l'Europa a chiedersi seriamente dove vogliamo andare economicamente. Allora, la conferenza stampa di Herman Van Rompuy, il presidente europeo, è iniziata pochi minuti fa. È uscito Van Rompuy dicendo: ho potuto sentire che c'è uno spirito di cooperazione tra i 27, e ha elencato i 4 obiettivi che si pone questa task force, cioè arrivare a una maggiore disciplina di bilancio rendendo più efficace il patto di stabilità, trovare i mezzi per ridurre le divergenze nella competitività dei paesi membri, avere un meccanismo efficace di gestione delle crisi economiche e rafforzare anche la governance economica dell'Europa. Lavoreremo su un accordo complessivo, ha detto Van Rompuy. In prima dell'estate ci saranno altre 2 riunioni. Un primo bilancio verrà fatto al Consiglio europeo di giugno, con l'obiettivo di chiudere nel Consiglio europeo di ottobre. L'obiettivo, ha detto Van Rompuy, è quello di una coesione più forte all'interno dell'Europa, e ha chiuso dicendo: c'è un senso di urgenza tra i 27 paesi europei. Dopo la Spagna e il Portogallo, altri paesi sono pronti a prendere misure drastiche. Grazie Sergio, vedremo che cos'altro avrà da dire Van Rompuy per questa conferenza stampa che è ancora in corso. Io intanto saluto i nostri 2 ospiti per affrontare questo argomento: Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Professor De Aglio, buonasera. Non c'è... Pronto? Sì, pronto, buonasera professore. Buonasera a lei. Buonasera anche a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Beda. Allora, professor De Aglio, ci siamo parlati prima della trasmissione, lei esprimeva l'idea che una forte accelerazione al fatto che i paesi europei arrivino ad un accordo su questi temi è arrivato proprio dall'approvazione della riforma della finanza americana questa notte al Senato, della quale abbiamo parlato in apertura di programma. È così, mi sembra di capire. Ma direi di sì, direi che, visto che gli americani tutto sommato non scherzano, quindi si sono messi a fare i severi con i loro finanzieri, traducendo in italiano il politichese di Van Rompuy, credo che si possa dire che noi dobbiamo tutti cercare di adeguarci a quello che i tedeschi hanno già fatto, e quindi fare delle norme che sottopongano a maggiori controlli certe operazioni e ne vietino certe altre. Allora, sono le 18, 15 minuti, 28 secondi. C'è una pausa per la viabilità e poi riprendiamo con altre domande, naturalmente, sia per il professore che per Beda Romano, soprattutto sul ruolo della Germania, naturalmente. Le 18 e 17 minuti, si diceva della Germania. Abbiamo letto oggi sui quotidiani che Berlino si preparava a presentare in questa riunione della task force un piano in 9 punti. Ve ne citiamo qualcuno giusto per dare un'idea: la BCE, che avrà il potere di revisore dei bilanci pubblici, la richiesta, che forse è quella un pochino più controversa, cioè il tetto al deficit pubblico all'interno, a debito e disavanzo all'interno delle costituzioni dei singoli paesi, poi sanzioni per i paesi inadempienti, fondi strutturali sospesi e niente diritto di voto, e poi addirittura procedura obbligatoria di insolvenza governata dei paesi che non risanano i loro bilanci. Questo giusto per dare un'idea. Allora, professor De Aglio, mi sembra che la Germania abbia assunto decisamente un ruolo di guida e che l'Europa la stia seguendo. Beh, direi proprio di sì. Non so ancora se l'Europa la seguirà, molte delle cose che i tedeschi chiedono appaiono molto pesanti, comunque dobbiamo registrare questo fatto che passate le elezioni, passate abbastanza male devo dire per il governo tedesco, le elezioni della Renania, che cosa abbiamo? Abbiamo che finalmente si sono scossi di dosso il torpore e hanno guardato all'Europa come qualcosa che gli deve interessare direttamente. Vediamo quanto di questo sarà adottato, ma sicuramente sulle decisioni più operative, cioè sono quelle che riguardano le vendite allo scoperto di titoli pubblici e altre cose del genere che avevano un'urgenza di ore, la decisione tedesca ha contribuito a sbloccare l'andamento dei mercati e subito la pressione sull'euro si è allentata. Oggi l'euro ha recuperato ancora qualche punto, quindi questa caduta inarrestabile comunque è stata arrestata. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Abbiamo, il professore ha citato la questione dell'aver vietato le vendite allo scoperto di due giorni fa da parte della Germania. In più, in questi giorni abbiamo assistito ad una serie di dichiarazioni più o meno continue e abbastanza dure, sia dalla signora Merkel che dal resto dell'esecutivo. Quali sono le sensazioni che arrivano? Perché il governo tedesco si sta muovendo in questo modo ora? Ma è evidente che il governo tedesco è uscito dalle elezioni nel Nordrhein-Westfalia cercando di mostrare un po' più di leadership di quanto non avesse mostrato prima delle elezioni. La politica interna prima delle elezioni ha dominato per molti versi la strategia tedesca. Adesso la strategia tedesca è più evidente, non so francamente se sia molto chiara, perché negli ultimi giorni i tedeschi hanno presentato tre possibili riforme. Prima di tutto hanno introdotto questo divieto unilaterale sulle vendite allo scoperto che ha fatto molto discutere gli altri paesi europei, poi ha insistito molto sulle regole contro il deficit e contro i paesi meno virtuosi e poi terza cosa, ha proposto una tassa sulle transazioni finanziarie o sulle attività finanziarie, non è esattamente chiaro. La Germania in questo momento credo abbia due obiettivi. Un primo obiettivo è quello di rassicurare la propria opinione pubblica. L'opinione pubblica tedesca è sotto shock in questo momento, è sotto shock perché ha grandi timori per il futuro dell'euro ed è arrabbiata nei confronti delle banche che considera fondamentalmente responsabili della crisi finanziaria. Questo è il primo obiettivo della signora Merkel. Il secondo obiettivo della signora Merkel è quello di influenzare per quanto possibile il dibattito europeo in due campi. Il primo è la regolamentazione finanziaria e il secondo è l'andamento dei conti pubblici. L'obiettivo della Germania è chiaro per quanto riguarda la decisione di annunciare unilateralmente il divieto delle vendite allo scoperto. Il tentativo è stato quello di presentare sul tavolo una misura già operativa in modo tale da influenzare il dibattito europeo. Perché questo obiettivo? Perché la Germania ha paura in questo momento e sta cercando di difendersi, ho l'impressione, nell'unione monetaria in pericolo, e il suo obiettivo è quello di imporre le sue priorità all'Europa: conti pubblici risanati e finanza molto più regolamentata. Professore, condividere sembra un meccanismo di difesa da parte della Germania? Beh, assolutamente sì, con il fatto che nella percezione tedesca ormai è chiaro che non basta più la fortezza Germania, ci deve essere una fortezza Europa e forse qualcosa di più, ma sicuramente è una reazione difensiva. L'unica cosa su cui avrei qualche osservazione di quello che dice Beda Romano è che non so quanto tutto questo sia stato calcolato o quanto sia una nostra razionalizzazione a posteriori, cioè forse i tedeschi hanno anche agito un poco sull'assillo del momento quando vedevano addirittura le loro banche in difficoltà come quotazione e quindi con la necessità a mercati aperti di annunciare misure immediatamente esecutive che di fatto hanno avuto il loro effetto. Beda Romano, il ruolo della Banca Centrale Europea in tutto questo, ci sembra che abbia dato segnali, e si legge da molti osservatori, che abbia dato forti segnali di stabilità e sia riuscita a tranquillizzare discretamente i mercati per quanto possibile in una fase come questa. Sì, direi di sì, ha tranquillizzato i mercati fino a un certo punto, credo, perché temo che ci sia stata un po' di incomprensione tra la Banca Centrale Europea e i mercati finanziari. Penso in particolare al fatto che due settimane fa la banca aveva detto che non avrebbe acquistato obbligazioni pubbliche sul mercato, poi tre giorni dopo ha annunciato esattamente il contrario. Quindi ci sono state incomprensioni tra i mercati e la banca centrale, ma la banca centrale ha agito e credo che in questo momento se vi è un minimo di stabilità sui mercati finanziari europei e anche grazie alla banca centrale. Purtroppo però la banca centrale nel prendere questa decisione per molti versi storica, quella di acquistare obbligazioni pubbliche sui mercati finanziari, credo che abbia creato parecchie complicazioni nel rapporto con la Germania e con l'opinione pubblica tedesca. Da quando quella decisione è stata presa, i commenti nella stampa tedesca continuano ad essere piuttosto negativi. Molti tedeschi continuano a non capire perché la banca abbia deciso di prendere una decisione che non è contraria ai trattati europei, ma che è percepita da parte di molti tedeschi come l'abbandono dell'indipendenza della banca centrale nei confronti del potere politico. E quindi non è sorprendente se negli ultimi giorni e nell'ultima settimana il presidente Jean-Claude Trichet ha tentato in tutti i modi di convincere l'opinione pubblica tedesca con una serie di interviste alla stampa tedesca e alla televisione tedesca. Professor De Aglio, è d'accordo con l'ipotesi, a proposito di banca centrale e di ruoli più o meno impropri, con l'ipotesi tedesca di rendere Francoforte il revisore dei bilanci pubblici europei, o appunto è improprio? Più che prima ancora che improprio, direi difficile da realizzare. Lo staff della Banca Centrale Europea è relativamente piccolo e non fa altri mestieri rispetto a quello dei revisori dei conti, che richiede un'attività estremamente minuta. Io mi sarei aspettato che i tedeschi chiedessero questo ruolo per l'Eurostat, che già adesso certifica il rapporto deficit PIL e debito PIL dei vari paesi. Non solo, ma è lo stesso Eurostat che si era pronunciato contro l'entrata della Grecia proprio perché i suoi conti non erano affidabili. Il fatto che si voglia andare sulla banca centrale da un lato conferisce maggiore solennità, diciamo, alla cosa, dall'altra parte, se mai dovesse passare, richiederà una riorganizzazione completa e un'espansione della banca centrale. E anche qua, così come per la manovra italiana della quale abbiamo parlato prima, vedremo che cosa succederà. Ringrazio intanto Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa. Buonasera professore. Grazie a voi, buonasera. E saluto anche Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Beda. Arrivederci. Bene, si chiude così anche questa puntata di Focus Economia. Ringrazio Barbara Bianchi e Gaia Romani in redazione, Paolo Corleoni in regia. Ringrazio naturalmente tutti voi per l'ascolto. Un buon fine settimana da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.